queste esperienze di crescita interiore, che vuol dire maggiore serenità, maggiore equilibrio, maggiore perseveranza nel fare le cose buone per noi e le cose buone per gli altri, senza questi continui cedimenti allo scoraggiamento, alla depressione, alla svogliatezza, alla delusione, questo saper mantenere un certo livello di energia interiore che ci permette di affrontare a testa alta le fatiche del quotidiano. Più queste cose si alimentano dentro di noi, diventano robuste in noi, ci accompagnano abitualmente nella vita, e più viviamo una vita che sentiamo vale la pena di vivere. Quando scompaiono queste capacità, cadiamo nella depressione. Sappiamo che quando siamo nella depressione, purtroppo la vita perde di senso completamente, diventa difficilissimo sopravvivere, ti viene voglia di scomparire il più presto possibile dalla scena, dalla storia. Queste povere persone che cadono in depressione veramente ti fanno molta pietà, nel senso che sono persone alle volte bravissime, perché la depressione può venire per tanti motivi, non si tratta di dar colpa alla persona, perché dipende la depressione da tantissimi fattori, sia interni sia esterni. A volte non riesci neanche a spiegare perché una persona che fino a ieri era di ottimo umore, bellissimo, di stata persona di compagnia splendida, improvvisamente crolla, diventa un peso terribile per sé e un peso terribile per chi gli sta vicino, perché sta vicino alle persone depresse. Sì, finché siamo qui tranquilli noi è tutto bello. Puoi essere generosissimo, però quando si tratta di vivere insieme diventa veramente una fatica enorme con una persona depressa, perché non trovi mai quel tallone d'Achille per fargli saltare la depressione, e alla fine ti tira giù anche te. La via che conduce alla liberazione consiste nel riconoscere le proprie debolezze, i falsi movimenti o atteggiamenti, e ritirarsene, prendere le debite distanze per poterli osservare con pace interiore e cercare di capirli. È una regola eccellente: non giudicare nessuno, ma soltanto se stessi, finché non si sia diventati capaci di vedere le cose con mente e vitale calmi. Questa è una regola d'oro: non giudicare nessuno, neppure se stessi e nessun altro, finché non abbiamo raggiunto quella piattaforma di calma, di pace, di serenità interiore che ci permette di guardare alle persone, a noi stessi, alle situazioni con tranquillità. Perché la non calma è cattiva consigliera, la tranquillità è una consigliera splendida e ti fa fare le scelte giuste. Questo è il motivo per cui spesso dico: se avete degli scontri, se avete delle difficoltà con voi stessi, fate fatica ad accogliere voi stessi così come siete, con il vostro carattere, il vostro temperamento, le vostre debolezze. Se avete degli scontri con altri perché sono fatti diversamente da voi e vi creano così dei problemi, delle difficoltà, finché siete agitati non giudicate voi stessi, non permettetevi di dare dei giudizi negativi su di voi, né negativi né positivi, ma se siete giù di giro sono negativi comunque, e non permettetevi di giudicare nessun altro, anche se gli sbagli, gli errori che commette sono di un'evidenza lapalissiana. Voi non permettetevi di giudicare nessuno finché non avete la tranquillità interiore, lo sguardo della tranquillità rivolto verso quella persona, perché tutto ciò che non nasce dalla piattaforma della tranquillità vi porta fuori strada. È soltanto la tranquillità che vi permette di dare un giudizio pieno di equanimità, quel giudizio che chiamiamo discernimento. Ma il discernimento è senza rabbia, perché se fosse un discernimento arrabbiato non è più discernimento, è parziale, non è imparziale. Quindi è una regola eccellente non giudicare nessuno, ma soltanto se stessi, finché non si sia divenuti capaci di vedere le cose con mente e vitale, calmi, con tranquillità. Cosa vuol dire giudicare se stessi e non gli altri? Vuol dire non tanto giudicare, vuol dire sto male. E invece di attribuire il mio star male a realtà fuori di me, dico c'è qualche cosa dentro di me che non funziona, non per giudicarmi, ma per prendere in mano ciò che non funziona dentro di me. Perché se le cose funzionassero bene dentro di te, anche se il mondo attorno a te è stortissimo, tu sapresti accostarti al mondo con pace interiore e non col turbamento. Finché c'è turbamento vuol dire che c'è un lavoro da fare su di noi. Quando hai trovato la tranquillità, allora sei nella condizione di prendere in mano gli alberi storti e di raddrizzarli. Ma se non hai la pace, la calma dentro di te, davanti agli alberi storti, invece di raddrizzarli, li storti di più. Questo è quello che Francesco, una ammonizione di San Francesco che ho già citato altre volte, quando dice al frate, un frate che era turbato, penso che i pensieri di San Francesco nascono sempre dal contatto con la realtà concreta, non è che lui si mettesse a tavolino e cominciasse a fare Aurobindo, il pensatore dello yoga, eccetera. San Francesco viveva della immediatezza, del rapporto immediato. E dice, è vero, il peccato nostro, il peccato altrui deve dispiacerci, perché il peccato è sempre qualcosa che fa funzionare male la vita, cioè una scelta sbagliata, una scelta non limpida, non saggia, che invece di far fiorire la vita la mortifica in chi commette il peccato, in chi è vicino a una persona, che peccato vuol dire fare una scelta sbagliata. Le cose sbagliate mortificano sempre il senso genuino della vita, quindi deve farci dispiacere. Però guai a quel frate che perdesse la propria pace interiore, la propria serenità e quindi la capacità di essere presente con serenità alle persone che sbagliano o a se stesso quando sbagli a causa del proprio peccato o del peccato altrui. Perché perdere questa pace sarebbe un peccato decisamente superiore e peggiore di qualsiasi peccato che noi possiamo rimproverare a noi e agli altri. Il grande peccato è perdere la pace, perché la pace è una qualità divina che noi dobbiamo coltivare costantemente nella nostra vita, perché da questa pace viene fuori la sapienza divina che ci orienta in modo intelligente, buono, nella relazione che abbiamo con noi, con gli altri, con tutte le cose, ma continuamente coltivata. Ed ecco perché dicevo, se avete qualche cosa con voi, se avete qualche cosa con qualcun altro, finché siete agitati, evitate prima di tutto di dare dei giudizi e di fare delle scelte, e poi prendete la saggia decisione di sedervi e di star seduti in meditazione fino a quando riappare la pace interiore, e poi fate delle scelte, intervenite quando avete la pace interiore, ma finché c'è il turbamento, il lavoro più intelligente che potete fare è quello di sedervi e di non fare niente fino a quando non sia, si sia dissolto questa nebbia, che offusca la vostra capacità di vedere, e che è dovuta all'agitazione interiore. Agire sempre soltanto nella calma, nella pace, nella tranquillità del cuore. Ho già detto, questo così mi aggancio anche ai nuovi, questo è il traguardo che in tutti i tempi, a tutte le latitudini, quelli che hanno meditato hanno sempre cercato, cioè questi grandi meditanti, grandi o piccoli, quando noi ascoltiamo la storia del cammino meditativo, fin dalle origini più lontane e a tutte le latitudini, indipendentemente dalla cultura, a cui i meditanti appartenevano, hanno sempre ripetuto la stessa cosa, che il traguardo di tutta la pratica meditativa è la pace del cuore, perché dalla pace del cuore escono cose buone, dall'agitazione del cuore escono cose cattive, per noi e per gli altri, cioè distruttive. Ecco perché i monaci del deserto, che poi diventano i monaci della grande tradizione della Chiesa ortodossa, i monaci del Monte Athos e di altre località, cosa cercavano? Cercavano esichia, la pace del cuore, quella pace che Dio dona senza lesinare a coloro che lo amano. I monaci dei grandi monasteri della tradizione latina, quindi occidentale, cosa cercavano? Cercavano quies, ma quies è di nuovo esichia, è la pace del cuore, quiete, la tranquillità, la calma interiore. Cosa cercavano il Buddha e soprattutto cosa insegnava ai suoi monaci, ai suoi seguaci? Samatha. E Samatha di nuovo è la pace del cuore, quella tranquillità, quella pace interiore che ti permette poi di avere Vipassana, la visione profonda. Ed è molto chiaro il Buddha su questo punto. Se vuoi arrivare alla visione profonda, quella visione che ti permette di vedere in trasparenza nella realtà e in virtù di questa visione trasparente di comprendere le cose, e in virtù della comprensione di gestirle con sapienza, appanna alla sapienza, alla saggezza della vita, se poi per venire alla saggezza della vita, cioè alla capacità di fare delle scelte veramente intelligenti, buone, che fanno fiorire la vita in te e attorno a te, la cosa indispensabile è Samatha. Devi prima di tutto sapere stare tranquillamente, serenamente, con le cose così come sono, perché se manca questa tranquillità, come fai ad ascoltare? Pronunci continuamente i tuoi giudizi su questo e su quello e non comprenderai mai niente e nessuno. Per comprendere, bisogna sapere ascoltare e sapere ascoltare le cose storte, le cose difficili, perché sono quelle che hanno bisogno di un supplemento di ascolto per essere capite, nel loro travaglio, nella loro difficoltà e perché tu possa tendere una mano, perché possano uscire dalla loro situazione di mortificazione e vivere più intensamente. Cosa cercavano Patanjali, ma tutta la grande tradizione yogica? Samadhi, e Samadhi può essere tradotto di nuovo con pace del cuore. È vero che il termine indica comunione, intimità profonda, fusione addirittura, i due che diventano uno, ma diventano uno perché sanno ascoltarsi reciprocamente, uno sa ascoltare l'altro in modo talmente profondo da accoglierlo così com'è, pienamente in sé e di stare bene con questa realtà dell'altro o dell'altra cosa, stare bene anche quando è storta. Poi quando sei in questa attitudine, noi di questa attitudine abbiamo un po' paura, perché diciamo, beh, allora bisogna adattarsi a tutto, ma allora alla fine mi fanno fuori, cioè che vita è quando stare soltanto con cose storte? Bisognerebbe stare con una persona un po' dritta. Ma non dobbiamo avere paura perché l'accoglienza guarisce, è il segreto della guarigione. E i terapeuti lo sanno meglio di noi che meditiamo perché questa è la loro attitudine, poi la metteranno in pratica nel set terapeutico. E si dimenticheranno di metterlo in pratica con la moglie e col marito, quando sono fuori dal set, perché questa è sempre la difficoltà, quando siamo nel concreto dell'esistenza. Ed ecco perché la meditazione è di fondamentale importanza, perché è un allenamento costante ad esercitare la tranquillità, la serenità, la pace interiore mentre viviamo il rapporto concreto con le realtà dell'esistenza. E si può capire soltanto mettendola in pratica, è quello che faceva dire a Corrado Pensa, perché una volta era stato invitato da un gruppo di psicoterapeuti a parlare della meditazione e lui si è rifiutato e ha detto: se venite a fare meditazione ve ne parlo, ma se volete la chiavetta per risolvere i problemi, no, non ve la do, perché non fareste altro che una tecnica in più da mettere in pratica con gli altri, poi non la mettete in pratica voi, e se non la mettete in pratica voi per primi non comprenderete mai niente della meditazione e la userete male. Questa chiave bisogna. Quindi è una regola eccellente non giudicare nessuno, ma soltanto se stessi, finché non si sia diventati capaci di vedere le cose con mente e vitale calmi. Mente, sappiamo cosa dire, vuol dire con una visione mentale calma, tranquillità della mente, chiarezza di pensiero, pensiero non agitato, non compulsivo, non coinvolto, e vitale vuol dire anche il corpo deve partecipare a questa calma, perché noi sentiamo benissimo che quando manca la calma sul piano mentale o sul piano emotivo, anche il corpo è agitato. Ci sono altri passaggi in Aurobindo dove insiste moltissimo proprio sul coltivare la calma del corpo, perché il corpo è di fondamentale importanza. Se le mie viscere sono tranquille, se lo stomaco è tranquillo, se le palpitazioni sono tranquille, anche la mente è più tranquilla, ma se non ci preoccupiamo di coltivare costantemente la calma sul piano del corpo fisico, che a sua volta reagisce agli input che sopraggiungono dal mondo esterno, sarà difficilissimo mantenere la calma del cuore e la pace della mente, perché il corpo esercita una incidenza determinante sulla qualità del nostro pensiero e sulle qualità dei nostri sentimenti. L'altro giorno trasmettevano Porte Aperte. Cos'è Porte Aperte? Porta a Porta. Così delle esperienze di passaggio attraverso la depressione. E avevo chiamato diversi personaggi anche dello spettacolo e così. Persone che erano passate attraverso momenti di forte depressione. E c'erano, beh, il solito psicoterapeuta, psichiatra, forse anche Crepè. Cos'è Crepè? È uno psichiatra. psichiatra infantile. Però è interessante, per essere psichiatra, di nuovo, lui insisteva moltissimo sul fatto che queste forme di depressione vanno affrontate con la psicoterapia e non con i farmaci. Poi c'era un altro che è invece del medico e psichiatra, e lui insisteva molto invece sul fatto che vanno aiutati con la medicina, con sì, con gli antidepressivi. Ed è stranissimo però che queste due persone, che sono tutte e due dicono delle cose intelligenti, tutti e due dicevano cose molto intelligenti, non riescono ad andare d'accordo, perché è tanto evidente che bisogna aiutare con tutte e due. È tanto evidente, altrimenti facciamo una scissione nell'essere umano, diciamo il corpo è da una parte e la psiche è dall'altra, con l'idea che ci può essere dentro di noi un'anima onnipotente che mette a posto. Non esiste, perché l'anima viene fuori dal corpo. E se il corpo è in subbuglio, non possiamo pretendere che la mente sia lucida, sia limpida, e allora devono collaborare tra di loro. Ma io sono anch'io convinto che in certi casi, se non dai un supporto sul piano fisico, non ce la fai ad affrontare certi problemi, perché manca l'energia interiore per voi. Poi che non bisogna delegare tutto soltanto agli antidepressivi, sono perfettamente d'accordo, perché non fai che tu tappare buchi. Però una depressione può dipendere, uno può avere la coscienza, perfettamente tranquilla, limpida, una visione chiarissima, serena, tranquilla della vita e cadere in depressione perché c'è capitato qualcosa, ma non so, nel qualche globo del cervello è capitato scoppiato qualche cosa e va in depressione totale. E allora non basta la buona volontà, l'accettazione, cioè bisogna avere, veramente vedere se possiamo riparare, anzitutto lo squilibrio che è successo. Quindi lui insiste molto su questo coltivare la pace, la tranquillità nel corpo, apprendendo, ascoltando le manifestazioni fisiche di tensione, di smarrimento, di confusione, di avversione, perché il corpo parla anche lui il suo linguaggio e questo linguaggio ascoltato permette di sviluppare quelle attitudini che di nuovo ci fanno genitori affettuosi di noi stessi, che sanno accompagnare le cose permettendo alle cose di ritrovare il loro equilibrio. Non permettete inoltre alla vostra mente di formarsi impressioni affrettate, basate soltanto su qualche esperienza esteriore, né al vostro vitale di agire di conseguenza, che è un'altra affermazione importante. Non permettete alla vostra mente di formarsi impressioni affrettate sul sentito dire, sul letto, sui giornali, sentito la televisione. Né al vostro vitale di agire di conseguenza. C'è un po' di polemica, perché il Papa ha parlato in Africa contro i contraccettivi. Però vedete com'è vera questa roba qui. Io ho letto il testo originario dove il Papa dice una cosa tranquillissima. Dice, non possiamo risolvere questi problemi soltanto con gli anticoncezionali. Non possiamo, ci sono tante altre risorse, dobbiamo far leva su tutte le risorse. Questo è proprio il significato, adesso lo dico riassumendo, però è un discorso estremamente pacato, estremamente tranquillo. In scambio con i giornalisti che gli facevano delle domande, una giornalista gli ha fatto questa domanda e lui gli ha dato questa risposta. Vedete come se noi ci lasciamo basare, basiamo sempre su un'impressione, specialmente dei mezzi di comunicazione, ma non ho niente contro i mezzi di comunicazione sociale, però posso vedere come noi possiamo continuamente manipolare tutto. Io vorrei anche sapere cosa ha detto veramente Obama. Anche lui ha parlato delle cellule staminali e tutto questo, però c'è l'informazione dei giornali, probabilmente semplificano talmente le cose per cui sembra che problemi così importanti, perché sono problemi vitali, da questi personaggi vengano trattati come se fosse una cosetta che si può dire una battuta e mettiamo a posto con una battuta. E sicuramente Obama è troppo intelligente per fare un discorso di questo tipo. Per cui specialmente nel mondo di oggi noi dobbiamo stare molto molto attenti a non permettere alla vostra mente di formarsi impressioni affrettate basate soltanto su qualche esperienza esteriore, né al vostro vitale di agire di conseguenza. Cerchiamo di ascoltare profondamente le cose per poter arrivare a una visione chiara e allora si può fare discernimento. Posso anche parlare male del Papa, io non ho niente in contrario. Se dice una cosa sbagliata, il Papa va detto, hai detto una cosa sbagliata che io non, o comunque che io non riesco a condividere. Però un'altra cosa è questi giudizi che oggi creano una confusione terribile tra la gente, perché sembra che si parli apposta per creare confusione nelle menti, in modo che nessuno è più in grado di fare delle scelte consapevoli. Perché veramente tante volte quando ascoltiamo questi discorsi, io vengo fuori che sono cretino e dico, ma tu sei cretino, quegli altri sono tutti infinitamente più intelligenti di te, sei soltanto tu che non capisci niente, perché dopo quelle discussioni ho la testa che è in tilt, è confusa. Allora bisogna stare molto attenti a queste cose, cioè non permettete alla vostra mente di formarsi impressioni affrettate basate soltanto su qualche esperienza esteriore, né al vostro vitale di agire di conseguenza. Esiste un luogo nell'essere interiore in cui è possibile rimanere sempre calmi e e di là guardare con equilibrio e discernimento le agitazioni della coscienza di superficie, agendo su di essa per cambiarla. Se potrete imparare a vivere nella calma dell'essere interiore, avrete trovato una solida base per orientarvi con intelligenza e con amore nella vita. Esiste realmente. E di questa base, ripeto, tutti noi abbiamo qualche esperienza, perché chi pratica la meditazione, sia che la pratichi qui seduta, gambe incrociate, sia che la pratichi in altre forme, perché non è soltanto quelli che vengono a questi incontri che sanno meditare. Per fortuna la gente sa meditare perché ha, la natura stessa le insegna a meditare. Ci sono dei splendidi meditanti che non hanno mai frequentato nessuna scuola di meditazione, che sanno meditare meglio di noi. Sanno ascoltare la vita, sanno ascoltare gli altri. Questo non è un discorso contro quello che stiamo facendo, perché io credo che è veramente opportuno fare questo, perché in genere la persona si educa a uno stile di vita meditativo, però le vie che conducono a uno stile di vita meditativo possono essere molte, e per rifarmi al filmato che vedevate ieri sera, questo dei bambini, vedete come questi ragazzini tante volte dimostrano di saper meditare meglio degli altri, forse proprio perché si trovano in situazioni di vita talmente difficili, sono le situazioni stesse che dicono: qui o ti apri con una certa tranquillità, con una certa calma al reale, e allora potrai ancora attraversare le cose, altrimenti sei sopraffatto dalle situazioni che sono decisamente disastrose e più potenti di te. È interessantissimo vedere come questi ragazzini, noi saremmo disperati in quelle situazioni lì, e quelli sanno affrontare certamente con sofferenza, anche con una certa disinvoltura. Quella che mi impressiona sempre è questa disinvoltura che le rende serene anche nel volto. Basta pochissimo perché loro recuperino la perfetta serenità, il senso della vita, la gioia di vivere. E sono in situazioni dove noi andremo sottoterra. Quindi esiste un luogo nell'essere interiore in cui è possibile rimanere sempre calmi e di là guardare con equilibrio e discernimento le agitazioni della coscienza di superficie, agendo su di essa per cambiarla. Siamo agitati. Sei consapevole che esiste un luogo interiore dove la pace è presente e può accompagnarti, e allora siediti, cerca questo luogo interiore, entri in questo luogo interiore, e quando sei in contatto con la pace, allora ritorna verso le cose che hanno portato all'agitazione nella mente superficiale, non è di superficie, ecco, più che superficiale. E allora, quando anche la mente di superficie saprà guardare alle cose con tranquillità, troverai la chiave per risolvere i problemi. E questo vale nel rapporto che abbiamo con noi, per la piena accettazione di noi stessi, nel rapporto che abbiamo con gli altri, per la piena accettazione degli altri così come sono, prima di tutto. Ripeto, quando accetti, cambi. Oggi celebreremo l'Eucaristia. La tavola è per noi il simbolo della accettazione piena. Gente di pessima reputazione, di testa dura, perché non erano facili quelli che Gesù accoglieva a tavola, non solo le prostitute, i pubblicani, ma anche quando accoglieva i suoi discepoli, non erano di tempra migliore, forse non facevano determinate cose, però erano comunque di testa dura. Accolti a questa tavola vanno via trasformati, perché l'accoglienza trasforma, quindi non dobbiamo avere paura di accogliere. Certo, si tratta di accogliere, e accogliere vuol dire non un'accoglienza a metà, ma l'accoglienza col cuore aperto, con l'accoglienza che gli uomini di Dio, sia che siano cristiani, sia che siano induisti, sia che siano buddisti o di qualsiasi altra tradizione, sanno offrirti. E senti che che la loro presenza è una presenza che apre orizzonti davanti a te, ti guarisce, ti comunica il senso della vita. E quando siamo meno di Dio, è sempre il nostro ego che si impone e nasce invece che la chiarezza, il conflitto, lo smarrimento. Quindi l'accoglienza non è un gesto semplice, un gesto facile, ed è per questo che continuiamo ad esercitarci, contenti di fare un piccolo passo ogni giorno. Io sono ancora lontanissimo dal saper offrire serena, gioiosa, piena accoglienza a me stesso, perché molto spesso sono insoddisfatto di me stesso, delle cose che faccio, faccio difficoltà ad accogliere gli altri, specialmente ognuno poi ha le sue predilezioni, quindi non è che le relazioni scorrono sciolte, libere, felici, magari sono educate, non sono aggressive, però un'altra cosa è quello che passa dentro di te. E quindi non è per niente facile, bisogna esercitarsi continuamente, e addirittura esprimere gratitudine alle difficoltà che incontriamo, perché se non incontrassimo le difficoltà non faremmo nessun lavoro su di noi e non ci sarebbe nessuna crescita interiore. Ecco perché è importante. E questo vale anche nella pratica. Noi faremo adesso un po' di pratica. Per chi è nuovo darò delle indicazioni come potete lavorare, ma poi tenete già presente fin dall'inizio, dopo 5 minuti sarà una noia potente il lavoro che vi faccio fare. E ringraziate il Signore che sia una noia e non qualcosa che vi diletta, perché la noia vi permette di fare un buon lavoro, educare la vostra mente a stare tranquillamente anche con la noia e a perseverare nel lavoro nonostante il fatto che sia un lavoro non gratificante. Perché allora imparate qualche cosa. Se imparate soltanto ad apprezzare la gratificazione, ogni asino è capace di farlo. Cioè noi dobbiamo sapere ascoltare con grande serenità e gratitudine interiore anche le cose difficili della vita, perché è da quelle cose ascoltate così che emerge la nostra vera statura interiore. Altrimenti, dico, con le cose che mi gratificano. Tutti sappiamo star bene quando le cose ci gratificano. L'arte è saper star bene anche con le cose che al momento non ci gratificano, offrendo ad esse questa tranquilla, serena, piena accoglienza.